Ecco, allora io vi ringrazio di essere qui con noi, ringrazio il nostro ospite, il professor Franco Baldessarelli, che era già stato nostro ospite in settembre di quest'anno per la presentazione di un libro curato dalla casa editrice Praxis di Bolzano, che aveva per titolo Futuro Alto Adige. In quell'occasione aveva dato appunto un suo contributo in quanto avvocato e giurista e conoscitore della nostra situazione locale. È originario di Merano, anche se da anni esercita e lavora anche come docente universitario a Parma, però torna spesso appunto qui in Alto Adige e questa sera ci spiegherà, ci illustrerà un suo saggio che ho letto con grande avidità, anche perché c'è una parte molto consistente storica, di storia romana, Un mio vecchio amore. Devo dire che non essendo una giurista mi sono preparata a qualche domanda, a qualche appunto, non entrerò nel merito, lascerò chiaramente al nostro gentile ospite illustrare quelle che sono le sue i suoi studi, le sue ricerche, le conclusioni in merito ad alcuni temi. Per noi è sempre un piacere avere come ospite delle persone, come nel caso del professor Baldessarelli, che si impegnano e danno un contributo scientifico nelle varie discipline, come in questo caso della giurisprudenza e in particolare della storia del diritto romano, perché siamo convinti che siano sempre delle preziose occasioni per tutti noi e per il nostro pubblico, ma anche per la biblioteca, di ampliare certi orizzonti e di avere delle informazioni sempre nuove per completare anche le nostre raccolte bibliografiche, perché lo scibile è vastissimo, il livello è anche molto alto e quindi bisogna poi avere delle persone che ci diano una mano, ci segnalino anche certi rami da completare. In questo caso, questa sera appunto concludiamo con un tassello prezioso questo percorso scientifico con il contributo nell'ambito giuridico del professor Baldessarelli. Non mi dilungo molto, posso partire con una prima domanda, ecco, se me lo consente, perché leggendo... Sì, magari prima facevo domande. Perché, ecco, chiaramente. Vado? Prego. Allora, ringrazio la Valeria per avermi dato l'opportunità di presentare questo libro. Ringrazio per avermi definito professore. Io non sono professore, nel senso che sono un avvocato, non sono un professore, collaboro da molti anni con l'Università di Parma, col Dipartimento di Giurisprudenza in qualità di cultore della materia e come docente della scuola di specializzazione per le professioni forense delle professioni legali con la scuola di specializzazione dell'Università di Parma. Quindi diciamo sono un collaboratore, io faccio l'avvocato e mi diletto a collaborare con l'università e quindi a scrivere pubblicazioni e libri. Questo è il libro che è editato da una serie di seminari che io ho tenuto nell'ambito appunto della collaborazione con l'università come cultore della materia di diritto romano agli studenti del primo anno di giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza, e avendo notato un forte interesse da parte di questi studenti, che per certi aspetti mi ha pure sorpreso, mi sono motivato a trasmigrare le parole in lettere scritte. A questo ho aggiunto un interesse mio personale per la storia antica che deriva da una tradizione anche familiare, perché mio padre da piccoli ci raccontava l'Odissea, l'Eneide, e quindi praticamente ho sempre avuto inculcato la passione per la mitologia, per la storia greca-romana. Inoltre ho avuto la possibilità di partecipare con i miei genitori a viaggi in Libano, in Siria, in Marocco, in Tunisia, Cipro, Turchia e tutto il Medio Oriente, che mi hanno dato molta soddisfazione e mi hanno portato ad aumentare il piacere proprio per l'archeologia, per la storia antica, che ho dovuto chiaramente poi dopo mescolarla col diritto, perché il mio mestiere è quello, ed è uscito questo libro. Il libro prende spunto dal diritto romano, che come tutti sanno è lo scibile delle norme che riguardano il periodo della storia di Roma, che va dalle origini, cioè dalla fondazione di Roma nell'VIII secolo a.C. fino alla morte di Giustiniano nel VI secolo d.C. Sono 1300 anni di storia del diritto che ha forgiato tutti i diritti dei paesi europei e non solo, come vedremo più avanti. Quindi diciamo storia antica e diritto hanno dato vita a questo libro che è stato dedicato a mio padre, oggi era il compleanno, solo che mio padre è morto 15 giorni fa e quindi non può essere qua con noi, però insomma io penso che ci veda lo stesso. E, ha fatto in tempo a leggere la dedica e questo mi basta. Per il resto adesso possiamo anche cominciare con le domande della Hai professoressa. Hai già risposto alla prima domanda perché... Volevo ringraziare tutti quelli che sono qua, sono un po' meno dell'altra volta con il libro sull'autonomia, pochi ma buoni, e vedo che quindi sono molto attenti e saranno molto motivati, tutti interessati alla storia di Roma e del diritto quindi. Quella di Roma è una storia lunga, no? Quella storia di Roma è una storia lunga che ha del fascino, a mio parere, sì. Perché nasce sul Palatino, una capanna, se uno va sul Palatino lo vede, le capanne Romulee sono praticamente due piani in tufo con dei buchi, nasce sul Palatino, che dicono che sia stata la capanna di Romolo, e arriva a coinvolgere tre continenti nel tutto il mondo conosciuto, quindi è una storia per certi versi entusiasmante, ecco, secondo me. Certo, è anche una civiltà che ha portato avanti un'organizzazione, perché comunque le leggi nascono dalla necessità di organizzare, di sistemare anche i rapporti personali e la società, cercare di dare delle regole in maniera che la convivenza sia dignitosa e evitare, prevenire almeno anche i problemi, e quindi diciamo che la civiltà romana nel corso di numerosi secoli è riuscita, con sempre più specializzandosi sempre di più, a costruire tutto un apparato con delle leggi che sicuramente, se oggi non vengono utilizzate, hanno condizionato e hanno fortemente impostato quello che è la nostra giurisprudenza, la giurisprudenza anche non solo italiana ma a livello europeo, immagino. Assolutamente sì. E una prima curiosità che mi sono così segnata qua, leggendo questo libro, è appunto l'indicazione di quelle che sono le differenze fra diritto positivo e diritto naturale. Se puoi illustrarci un attimo questi due concetti. Allora, il diritto positivo sono le norme scritte. Le norme scritte, cioè, sono le norme dell'ordinamento giuridico, le norme di diritto civile, privato, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, quello è il diritto positivo. Le norme naturali sono delle norme non scritte, che sono delle norme sovraordinate, che sovente coincidono con le norme di diritto positivo, ma non necessariamente. Io posso fare degli esempi, per esempio chi, lo fate nel libro, chi per esempio occupa degli immobili lasciati sfitti dai proprietari o lasciati liberi dagli enti proprietari e ritiene di fare una cosa giusta perché per esempio occupa questi immobili per, non so, mettere gente dentro bisognosa, eccetera, secondo la norma di diritto naturale, secondo lui fa una cosa giusta. In verità, secondo il diritto positivo, non fa una cosa giusta perché è occupazione abusiva. Quindi non sempre la norma naturale coincide col diritto positivo. La norma naturale, per esempio, è l'obiezione di coscienza di chi non voleva fare, quando c'era il servizio militare. Quella era una norma naturale per la persona che si rendeva obiettore di coscienza. Per il diritto positivo quello era un comportamento illecito. Quindi non sempre la norma naturale coincide col diritto positivo. Se poi dopo andiamo ancora oltre e prendiamo la norma religiosa, che va oltre ancora la norma naturale, ci troveremo con dei comportamenti che sono completamente diversi. diversi, perché per esempio un'interruzione di gravidanza che può essere secondo la norma del diritto positivo a certe condizioni è consentita, secondo la norma naturale potrebbe essere accettata, secondo la norma religiosa non è accettata mai. Quindi norma naturale, norma positiva e norma religiosa possono coincidere, ma non necessariamente. E questa è una prefazione che io faccio, perché è una cosa importante, anche al tempo dei Romani c'era questa distinzione. Ecco, e poi il libro è organizzato invece, diciamo, dopo questa prefazione, dove vengono messe dei primi capisaldi, vengono date delle definizioni, c'è un excursus, una sequenza, diciamo, più che altro storica, no? Dove viene sviluppato il tema e fatta una cronistoria anche di quella che è stata l'evoluzione, la nascita e l'evoluzione della scienza, diciamo, chiamiamola della scienza della giurisprudenza nell'ambito della storia romana e della civiltà romana. E vengono definiti anche dei periodi molto ben precisi, diciamo, di come si sviluppa, di come si nasce e si sviluppa il diritto romano. È distinto appunto quattro grandi momenti che vanno dalla monarchia all'età repubblicana, poi l'impero e infine il dominato. Esattamente. Quali possono essere le caratteristiche salienti di questi quattro periodi, che poi sono decine di secoli, insomma, alla fine? Allora, cerco di dare un taglio anche che interessa, perché sennò il rischio di questi libri è che nella maggior parte delle volte siano, diciamo, un po' pesanti, no? Allora io, come ho fatto con gli studenti a cui ho tenuto questi seminari, ho cercato di dare un taglio un po' interessante. Allora, la storia di Roma sono 1300 anni. Sono quattro periodi, no? Il periodo della monarchia, cioè i sette re di Roma, quello che conoscono tutti, il periodo repubblicano, quello di Giulio Cesare per intenderci, il periodo imperiale, quello di Augusto e degli altri imperatori, e il periodo del dominato, quello di Diocleziano, che finisce poi con Giustiniano. Nell'arco di questi 1300 anni il diritto si è sviluppato in una maniera che ha delle inverosimili. Allora, nella parte originaria, nella monarchia arcaica, il diritto era non scritto, era consuetudinario, vi era c'era già la distinzione tra gli aspetti civili e gli aspetti penali, che allora si chiamavano criminali. Il diritto civile era depositato presso, era non scritto e veniva gestito dai pontefici, che erano delle figure religiose, in maniera del tutto arbitraria, in maniera del tutto fuori da ogni controllo. Nel periodo repubblicano la figura preposta all'amministrazione della giustizia era il pretore. Nel periodo imperiale era il principe e nel periodo del dominato era l'imperatore, diciamo, il monarca assoluto. Ora, l'importanza della storia del diritto romana è data dal fatto che si sono buttate le basi per degli istituti che tutt'oggi sono vigenti. Cioè, se noi ogni volta che ci troviamo a dover fare conti con qualunque situazione attuale, che sia un furto subito, che sia la morte di un parente e quindi la successione, che sia la discussione su un testamento, che sia una quota di legittima, che sia l'usucapione di un terreno, noi abbiamo sempre e unicamente la radice nel diritto romano. L'importanza del diritto romano è data dal fatto che è stato l'unico diritto che è sopravvissuto a se stesso, l'unico diritto che è sopravvissuto ai romani quando l'impero romano è crollato, e che si è praticamente trascinato fino adesso. Quindi noi, qualunque cosa che facciamo oggi, che sia la lettura di un testamento, che sia impugnare un contratto per i vizi della volontà, che sia la stessa responsabilità civile, noi troviamo sempre una radice del diritto romano. Se non ci fosse stato il diritto romano, dico io, noi non avremmo questo diritto, e non solo noi, ma anche gli altri paesi dell'Europa, perché gli altri paesi dell'Europa che hanno fatto parte del Sacro Romano Impero, dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, hanno attinto dal diritto romano, quello che è diventato poi il civil law, cioè il diritto civile, che si contrappone poi al common law, che è quello dei paesi del Commonwealth, dell'Inghilterra e paesi anglosassoni. Quindi noi, qualunque cosa ci troviamo, ma anche lo stesso rapporto, la locazione, per dire, noi affittiamo un appartamento, la locatio rei, il fondamento è nei contratti contratti elaborati dalla giurisprudenza classica imperiale del periodo di Augusto. C'è poco da fare. Quindi noi, qualunque cosa facciamo oggi, la dobbiamo ricondurre al diritto romano, e questa è la grandezza proprio del diritto romano e l'importanza che ancora oggi ha. Sì, quindi non solo appunto questo perdurare nei secoli, ma anche questa attualità nel saper regolare delle situazioni. C'è un ambito dove forse i romani erano un po' più deboli nell'ambito? Questa è una domanda così che mi impongo, perché era talmente tutto regolato e codificato leggendo. Ma guarda, i romani non erano deboli secondo me in nessun ambito, perché nello stesso diritto criminale che nasce nel periodo della monarchia dei sette re, come diciamo autotutela o come sotto i sette re di Roma, per intenderci, il pater familias, cioè il sui iuris, il padre famiglia, aveva diritto di vita e di morte sui figli e sugli schiavi. Subito dopo, però, nel periodo repubblicano, quindi dopo 200 anni, questo aspetto è stato corretto, nel senso che comunque è intervenuto subito con la cacciata di Tarquinio Superbo, dei re etruschi, con l'avvento dei consoli e della Repubblica, questo aspetto è stato subito corretto. Quindi sono entrati subito in vigore, diciamo, i pretori con le loro norme, con la regolamentazione, proprio perché si è voluto da subito, diciamo, regolamentare l'autotutela, regolamentare questa anarchia, diciamo, di comportamento, e quindi da subito il diritto romano ha posto dei paletti che hanno, diciamo, regolamentato i rapporti tra gli uomini, e non solo tra i civer, cioè tra i cittadini romani, ma anche quelli che si chiamavano i peregrini, che erano poi i cittadini, non erano cittadini, le persone che man mano venivano inglobate all'interno dell'impero romano. Quindi un anello debole nel diritto romano ci sarà stato sicuramente, perché c'è anche adesso, però io non lo vedo, perché anche a livello, diciamo, di diritto amministrativo la burocrazia imperiale era capillare, c'era una gerarchia nelle funzioni tra i prefetti, i viceprefetti eccetera, che era veramente, che ha dell'incredibile se uno pensa che era 2000 anni fa. Sì. Qual è il periodo più fecondo, diciamo, nella produzione di leggi e nell'organizzazione, nella ricerca di una regolamentazione di questi quattro? Beh, insomma, il periodo più fecondo è sicuramente il periodo classico, che è quello lì, diciamo, dell'impero, cioè con l'avvento di Augusto fino alla caduta dell'impero, e con l'avvento poi di Diocleziano nel III secolo d.C. È il periodo in cui i giureconsulti, cioè quelli che praticamente erano gli studiosi di diritto, hanno creato delle grosse, diciamo, opere, Paolo, il Piano, Papiniano, eccetera, e che poi sono state rese note, perché poi chiaramente trattavano di papiri, quindi insomma in gran parte distrutti, però noi abbiamo una grande compilazione, che è quella del Corpus Iuris Civilis, che è la compilazione giustinianea, soprattutto il digesto, che ci ha consentito di conoscere le opere dei giuristi classici. Perché? Perché nel digesto sono stati ripresi tutti i passaggi più importanti dei giuristi classici, sono stati legati tra di loro e sono stati creati e aggiornati i vari istituti dell'usucapione, dell'usufrutto, dell'uso, dell'enfiteusi, delle servitù, dei diritti reali di godimento, dei diritti reali di garanzia, eccetera eccetera. E quindi è citata quest'opera immensa di 50 libri, che è il Corpus Iuris Civilis, che è il digesto, che fa parte del Corpus Iuris Civilis commissionato dall'imperatore Giustiniano. Diciamo che il periodo più fecondo è stato quello imperiale come produzione, il periodo più fecondo come ordine è stato quello del dominato, cioè post-classico, anche se dal punto di vista della produzione lì si assiste a uno scadimento, mentre invece come ordine si assiste sicuramente a un'organizzazione capillare. Nasce questa necessità, sì, di raccogliere le leggi, sì, di sì, dare... Sì, perché c'erano... Perché i romani non concepivano l'abrogazione della legge, quindi man mano che c'era una legge nuova, quella vecchia non veniva abrogata, c'era sempre. Quindi a un certo punto Giustiniano si è trovato con una mole di norme pazzesche e ha dovuto mettere mano, e ha fatto praticamente quella che è la sua compilazione, i codici, le novelle, le istituzioni e le pandette o il digesto. Un po' il ginepraio in cui ci troviamo ogni tanto oggi, no? Che secondo me oggi è peggio. Comincio a capirla, comincio ad assimilarla, dopodiché arriva già la programmazione, questo è l'articolo che viene sostituito, l'aggiornamento, sì, sì. Penso al codice degli appalti, ecco, per dire, no? Che è una sfida ogni volta. Che poi non è neanche vero che sia la pacchia di noi avvocati, perché a volte anche noi facciamo fatica adesso, star dietro a queste cose qua. Ecco, sì, questa è una domanda che esce un po' dal seminato. Basti pensare che l'anno scorso, per esempio, tenevo delle lezioni alla scuola di specializzazione per le professioni legali. A febbraio abbiamo commentato con gli studenti una sentenza in materia, mi sembra, di matrimonio. Praticamente si diceva che laddove la moglie divorziata fosse andata a convivere stabilmente con un altro compagno, non avrebbe comunque perso l'assegno di divorzio. Dopo la Cassazione, dopo un mese, l'esatto contrario. Quindi vedete che insomma si fa un po' fatica a stare dietro. Ecco, sì, infatti, cioè, diciamo che anche il normale cittadino che vuole così essere osservante e conoscere, perché si dice ignoranza non excuse, però alla fine è una bella sfida stare dietro a tutta la produzione anche attuale per muoversi in maniera corretta, perché a volte arrivano degli aggiornamenti e non bisogna essere degli esperti. Diciamo che la legge non ammette ignoranza, e soprattutto nel penale, quello lì, ecco, in genere dovrebbe essere abbastanza, diciamo, lineare, sì, le condotte da tenere. Sono grandi cambiamenti. No, quella per fortuna no. Ecco, devo dire che leggendo questo libro, che è molto tecnico, quindi non essendo io una giurista ma una filologa, ecco, ho avuto un approccio un pochino diverso, e mi ha colpito anche questo grande pragmatismo, no, da parte della civiltà romana nel codificare tutta una serie di comportamenti e nell'andare sempre più nello specifico delle varie situazioni che potevano verificarsi, e dall'altra però anche questa considerazione che alla fine fai nel libro, che tutto sommato le cose non perdurano in eterno, ma che i cambiamenti ci sono, quindi delle evoluzioni anche nel comportamento e degli adeguamenti da parte della società devono essere presi in considerazione. Hai fatto anche un'altra osservazione, portavi degli esempi all'inizio che sono attualissimi e concreti, che come citavi prima, la libertà di coscienza e altre cose che non sempre sono così facili da assimilare e da sincronizzare, tra virgolette, con il diritto, che possono essere socialmente delle cose rilevanti, e citavi anche l'esempio del vaccino, no? Per portarci un po' ai giorni nostri. Sì, sì. Questo discorso delle vaccinazioni, del fatto che tante persone si muovono in una linea, le istituzioni invece cercano nell'interesse comune di portare avanti un altro tipo di discorso, e poi si arriva a degli scontri che finiscono anche davanti al giudice. Non ultimo è successo la settimana scorsa, l'abbiamo letto sul giornale, che c'è stata una presa di posizione precisa del tribunale nei confronti di chi promuoveva o comunque voleva portare avanti un discorso di contrario al vaccino, e la ASL invece che ha preso posizione e ha vinto, diciamo, su questo fronte nell'interesse della collettività. Ecco, ci sono nell'ambito del popolo romano, ci sono state secondo te delle prese di posizione di questo tipo? Ci sono stati dei movimenti? Adesso faccio una domanda molto azzardata, non so se, perché qui forse ci vorrebbero dei documenti storici, però mi sembra che il popolo fosse abbastanza sanguigno, cioè non è che se le facesse... No, imporre tutta una serie di cose. Diciamo che loro poi i sistemi non erano quelli di adesso, diciamo che quando c'era il potere centrale che decideva non andava molto per il sottile. È vero che i romani hanno sempre rispettato fuori dalla penisola italica e quindi nell'ambito del Mediterraneo le culture, le abitudini e le civiltà del Mediterraneo. Quindi diciamo i romani concepirono il loro impero come qualcosa anche di comodo, cioè loro non impiegarono mai la forza per imporre nei paesi tipo del Mediterraneo la loro cultura o le loro abitudini o i loro magistrati. Li lasciarono sempre lì, a loro interessava, diciamo, che stessero più tranquilli possibile. Quindi sicuramente c'era una certa libertà di azione da parte di queste popolazioni. Faccio un esempio che è tutt'altro che banale: quando ci fu il processo a Gesù, chi decide Che cosa doveva essere fatto fu il popolo, no? Tutti si ricordano quando il Ponzio Pilato, che era il governatore della Giudea, chiese Barabba o Gesù, il popolo disse Barabba, libero. Quindi, come vedete, poi Roma non è che si ingeriva più di tanto nelle questioni di questi paesi, pur essendo integrati nell'impero, li lasciava, li faceva fare quello che volevano, basta che li teneva tranquilli così. Quindi non c'era un'ingerenza in questo senso. Certo che quando alzavano la cresta, poi non è che come tu fai l'esempio del vaccino, poi andavano giù di vanga, insomma non è che stavano molto per il sottile. Sì. Diciamo che li lasciavano fino a un certo livello, poi quando sforavano però... Una democrazia controllata. Sì, una democrazia controllata. Però il segreto che ha durato molto è anche questo, cioè tutti i paesi del Mediterraneo che hanno fatto parte poi dell'impero romano hanno avuto sempre questo senso di appartenenza all'impero romano che in un certo qual modo li lusingava, cioè se voi siete stati come me nei paesi tipo in Libano, in Siria, in Marocco, in Algeria eccetera, no in Algeria no, non sono andato, in Tunisia, che vedete queste costruzioni immense, nella stessa Libia, Leptis Magna, Sabratà, le popolazioni erano anche fiere di appartenere all'impero romano, tanto è vero che nel 212 d.C. con Caracalla tutti hanno voluto la cittadinanza romana, quindi non c'erano queste sorte di ribellioni qua e là, insomma, anzi i nemici storici venivano fuori dai confini di Roma, i parti, i germani, non all'interno di Roma, anche perché come abbiamo avuto modo di dire nell'altra conferenza sull'autonomia, i romani lasciavano ampia autonomia a queste popolazioni, quindi non c'era più tutto questo malcontento, ecco, anche perché non sarebbe durato 1300 anni, se no. Sì. Anche la stessa loro organizzazione, vedo che tra consoli, questori, c'era tutto un apparato, suddivisione di potere per mantenere degli equilibri ed evitare lo strapotere o la preponderanza di una parte piuttosto che di un'altra, e la dice lunga insomma su quello che era il loro modo di concepire la società cercare di gestire al meglio i rapporti e anche una certa dignità individuale e libertà. Dall'altra, ciò nonostante, insomma, si è arrivati comunque a un imperatore, a un divo, un'espressione di un potere assoluto che ha quasi della tirannia, ecco, nei secoli, non è proprio rimasto tutto così sempre ben organizzato. Beh, cioè sì. Ci sono stati dei margini dove alla fine... sotto l'impero, sotto l'imperatore, fioccavano le congiure, gli omicidi, quindi... sono morti tantissimi, no, di questi imperatori, le congiure erano l'ordine del giorno, però nella popolazione normale, a parte le ultime fasi della monarchia etrusca, della repubblica, dell'impero e del dominato, dove la decadenza poi dopo la faceva da padrona, tutto sommato nel resto dei periodi, dei secoli, la popolazione era molto più avanti delle altre popolazioni dell'antichità, era molto più avanti. Il segreto della sopravvivenza... Per esempio le popolazioni del nord Europa, i famosi barbari, che adesso è un po' capovolta, no, la situazione rispetto a una volta, perché adesso il Mediterraneo è la parte debole e il nord Europa è la parte forte. Una volta era l'esatto contrario, cioè il Mediterraneo è la parte forte, il nord Europa era la parte debole. Le popolazioni barbariche, cioè i germani, i celti, gli stessi vichinghi dopo, i goti, i visigoti, gli unni, eccetera, erano le popolazioni che non avevano nessun tipo di regola. Invece Roma aveva tutto un organigramma, un'organizzazione capillare e anche un ordine interno. Allora, la scrittura? La scrittura è stata l'intuizione più grande dell'umanità, come ho avuto modo di dire, che è arrivata un po' tardi anche da noi rispetto al resto del... La scrittura, per esempio, è nata nel Medio Oriente, no? I Sumeri hanno inventato la scrittura, i Sumeri poi sono popolazioni dell'Iraq, quindi voglio dire... sono popolazioni che nel 3000 avanti Cristo erano molto più avanti di noi, adesso forse un po' meno. Questa è i corsi e ricorsi della storia, l'evoluzione dell'umanità che deve forse anche accettare questi cicli, no? Perché così è. E ancora una volevo fare ancora una domanda, ma in realtà è anche difficile poi entrare nel merito di alcune situazioni, però volevo chiederti le fonti che noi abbiamo, se vuoi illustrare un attimo le fonti che noi abbiamo per quanto riguarda lo studio del diritto romano, qui vedo che viene citato il Cippus Antiquissimus e il Corpus Iuris Civili, che è questa somma appunto dove viene tutto il Cippus Antiquissimus, in verità, cioè, qui entriamo un po' nel tecnico, sì. il Cippus Antiquissimus, allora la scrittura è stata escogitata, usiamo questo termine proprio, nel 3000 a.C. ad opera dei Sumeri. È stata, diciamo, elaborata per il tramite dei Fenici nel 1000 a.C., è stata adottata dai Greci nell'VIII secolo a.C. ed è stata importata in Italia dai Greci, delle colonie greche in Occidente, intorno all'VIII secolo a.C., VIII-VII secolo a.C. Nella penisola italica comincia a prendere forma intorno al VI secolo a.C. e il Cippus Antiquissimus è il primo precetto legislativo conosciuto in Italia, in latino arcaico, che praticamente è una piramide di pietra, di marmo, con inciso, diciamo, in latino arcaico un precetto che era il divieto che sanciva il divieto di circolare con degli animali sulla via sacra. Ora il divieto poco importa, perché si capisce bene che non è che abbia una grande importanza come divieto quello di non transitare sulla via sacra con animali, l'importanza è data dal fatto che è il primo precetto conosciuto, cioè la prima norma che c'è in Italia in latino arcaico, ed è diciamo la prima norma da cui, diciamo, noi, insomma, giuristi, ci piace dirlo, è sorto poi dopo tutto il diritto. Quindi questo Cippus è stato trovato nell'area antistante la Curia, che è il Senato a Roma, dove ci sono i fori imperiali, sotto una lastra di marmo nero che si chiama lapis niger, a me piace pensare che, essendo il primo precetto conosciuto di legge, abbia un fascino del tutto particolare. Il Corpus Iuris Civilis è invece la fine di questo periodo, mentre il Cippus risale alla fase arcaica, il Corpus Iuris risale alla fine, al tempo di Giustiniano, che è la famosa compilazione che abbiamo detto tutti, dove ormai la scrittura era diffusissima, i papiri, tutto, c'era tutto, e quindi, insomma, si è messo ordine. Però da lì a là ci passano dentro 1300 anni. In mezzo ci sono un sacco di fonti che sono state oggetto di studi, soprattutto nell'Ottocento, da parte dei gius romanisti, soprattutto tedeschi, soprattutto germanici, che hanno dato un contributo fortissimo allo studio, e c'è di tutto di più in mezzo, diciamo, papiri, tavolette di legno, transazioni trovate, tutto, cioè, si trova soprattutto in Egitto, nel Fayum, si trovano ancora contratti, e gli studiosi, ripercorrendo, diciamo, scoprendo questi reperti, interpretandoli e collocandoli in un determinato periodo storico, sono riusciti a ricostruire un'evoluzione, diciamo, del diritto dalle origini a Giustiniano. Quindi, diciamo che l'eredità oggi del diritto romano si esprime di più in che settore? Nel diritto privato, in quello civile? Sì, diciamo che dopo la caduta di Giustiniano, dopo la morte di Giustiniano e, diciamo, la caduta definitiva dell'impero romano, cioè l'impero romano d'Occidente era già stato diviso da Teodosio in due parti, no? Cioè l'impero romano d'Occidente e l'impero romano d'Oriente. Con Giustiniano, imperatore d'Oriente, riuscì a riconquistare, diciamo, parte dell'impero romano d'Occidente e a riunificare, diciamo, il vecchio impero. Con la morte di Giustiniano arrivarono i Longobardi e, diciamo, fu la disfatta totale. Il Corpus Iuris finì nel dimenticatoio, perché subentrarono poi i diritti germanici, eccetera. Intorno al 1000-1100 degli studiosi, motivati dagli imperatori del Sacro Romano Impero, ripresero in mano, diciamo, lo studio del diritto romano. vi furono delle scuole, Irnerio, Bartolomeo da Sassofrate, eccetera, e Andrea Alciato, con delle scuole che si chiamavano dei glossatori, commentatori, eccetera, riprese vigore questo studio, venne riorganizzato, venne adesso la metto molto semplice, venne riscoperto e ristrutturato il diritto romano, fece breccia all'interno del Sacro Romano Impero e riprese vigore andando a sostituire quello che era il diritto franco-germanico. Dopo la caduta del Sacro Romano Impero, ormai il diritto privato romano era infarciva buona parte della cultura centroeuropea e quindi fu assimilato dai vari codici civili francese, italiano, tedesco, eccetera. L'influenza del diritto romano è soprattutto nel diritto privato, cioè nel diritto civile, no? Perché nel diritto penale ovviamente poco c'è a che fare col diritto romano, salvo l'esistenza di certi fattispecie come la rapina, il furto, eccetera, che anche lì hanno trovato le prime regolamentazioni del diritto romano. Bene, io non so, vogliamo lasciare un po' di spazio per qualche domanda, se qualcuno ha qualche curiosità. Comunque, se voi fate un contratto di locazione con un inquilino, sappiate che loro la locatio rei l'avevano già scoperta 2500 anni fa, addirittura prima di Cristo, perché quella lì faceva parte ancora della Repubblica. La proprietà è sempre stato un tema, La proprietà questo. È già nel periodo del 2700 anni fa. Sì. L'usucapione anche, quindi qualunque cosa. L'usucapione è qualcosa di. Ah, beh, tutto attuale. Mi turba, no? Perché sempre lì è molto. Anche il termine è rimasto. Ah, il termine è rimasto, no? L'usufrutto è rimasto invariato. Sì. C'era forse la professoressa che voleva. Mi è venuta una curiosità, lei ha parlato, ha accennato ad una legge approvata, un mese fa. Che stabiliva che una signora. No, non era una legge, era una sentenza della Cassazione. Ah, sì. No, ma sono le sentenze della Cassazione, quelle non sono leggi. Cioè la Cassazione si pronuncia su dei casi, no? Cioè adesso al di là del diritto romano. Noi avvocati facciamo una causa, si va in primo grado, poi si va in secondo, si va in terzo. La Cassazione stabilisce una norma, un principio, che notoriamente poi va nelle banche dati e noi avvocati attingiamo da queste banche dati perché ci muoviamo in linea con quel principio lì, anche se non siamo obbligati a farlo, perché mentre i paesi del common law, cioè in Inghilterra, il precedente giurisprudenziale fa legge, fa norma e uno è obbligato ad adeguarsi, in Italia questo non avviene, noi siamo liberi, il giudice è liberissimo di discostarsi anche dalla Cassazione. È evidente che se c'è una Cassazione a sezioni unite, cioè una Cassazione, se voi fate una causa, arrivate in Cassazione e la Cassazione a sezioni unite stabilisce un principio, la sezione unita è quando varie sezioni della Cassazione danno una spiegazione contrastante tra di loro, la Cassazione a sezioni unite, adesso uso dei termini molto molto così sui generi, riunisce questi principi, fa un principio ed è quello. Ecco, quello lì i giudici di tutta l'Italia in genere si adeguano pur non avendo un obbligo, nel senso che il giudice può anche dire a me non interessa se la Cassazione della sezione unita dice così, io la penso diversamente, è liberissimo di farlo. Va da sé che poi quando fa la sentenza l'avvocato appellerà quella sentenza, perché ha verosimile, ha una buona possibilità quando arriva in Cassazione di vederla ribaltata questa sentenza. Se quel caso che ho detto io erano sezioni semplici, non era la sezione unita, la Cassazione aveva detto che una moglie divorziata, se ben ricordo perché è passato un anno, una moglie divorziata che va a convivere stabilmente con un nuovo compagno non perdeva il diritto all'assegno. Dopo un mese, durante il corso che ho tenuto, mi hanno detto, ma lo sapevo già, guardi avvocato che è successo questo e questo, e io lo sapevo, che la Cassazione aveva ribaltato questa sentenza, ma in verità era un'altra sezione. Allora verosimilmente poi il presidente della Cassazione deciderà di fare un principio unico, non lo so poi come è andato a finire, perché non è che poi seguiamo tutte queste cose qua. La sezione unita, per noi avvocati è oro che cola, cioè nessuno si discosta da una sezione unita, ripeto, se lei viene da me come avvocato e vuol fare una causa, cioè una sezione unita che dà contro, io le dico signora non faccio la causa, anche se lei mi può dire ma no, magari il giudice dice diversamente, può essere, però come avvocato glielo devo sconsigliare, quindi non è una legge, è una Cassazione, sono sentenze della Cassazione. Quindi Quindi è un indirizzo. È un indirizzo, bravo, un indirizzo. Può sfociare in una legge? No, no, non sfucia, la Cassazione non sfucia mai. No, no, la Cassazione proprio non c'entra niente con la legge. Cioè, nel senso che non è che il Parlamento tiene conto di quello che dice la Cassazione. Magari dovrebbe farlo, forse, farebbe bene, però non lo fa. No, no. Nulla di queste cose. No, no, no, no. Tiene conto di quello che dice la Corte Costituzionale, ma quella è un'altra parrocchia, diciamo. Marco, piuttosto turbata, anche violentemente turbata. No, signora, stia calma, non si preoccupi, cioè. Non rimanga turbata violentemente, che poi non mi fa dormire questa notte. No, ma dico, c'è una, adesso parlo, su una sentenza del tribunale che dichiara colpevole XY. Dopo il grado successivo, no, non è più colpevole. Io rimango molto. Beh, ma scusi, signora, guardi il caso della. L'hanno detto ieri alla televisione, la Knox. Cioè la primo grado e la secondo grado gli hanno dato 8-9 anni di galera, mi sembra. La Cassazione ha detto che non ha commesso il fatto. Ma che cosa deve pensare? Adesso viene pagata per andare. Cosa deve pensare? Deve pensare che da una parte abbiamo un sistema garantista che ci dà lustro, perché voglio dire, voglio dire, crea una confusione spaventosa. Dall'altra qualcuno ha sbagliato. Allora questo che paga, paga per il suo errore il giudice o no? Questo io ho detto anche, mi come il commercialista, anche quello non paga quello. No, dico, è come il commercialista che non paga quando. No, e dico io, se sbaglio che commento o danneggio, pago. Ma allora come mai chi ha in mano la mia vita, almeno in teoria, in quanto io sono cittadina di uno Stato e quindi lo Stato mi può penalizzare, come mai questo può sbagliare e non paga? Scusi, no, io non riesco a capirla questa cosa, mi disturba in maniera enorme, dico, ma qui I tre gradi di giudizio che c'erano, non c'erano, al tempo dei Romani non c'erano tre gradi di giudizio, in tutta la storia di Roma, soltanto nell'ultimo periodo, alla fine dell'impero e nel dominato c'era il secondo grado, che poi era l'imperatore. Cioè, se il tribunale di primo grado decideva diciamo un'avvertenza e la parte voleva impugnare, doveva andare davanti all'imperatore o al tribunale imperiale. Da noi i gradi di giudizio sono tre, anzi adesso con la Corte di Giustizia Europea possiamo dire che sono anche quattro. Chi ha deciso così? Beh, insomma, è la nostra storia, la storia dell'ordinamento giuridico italiano, la Cassazione c'è da una vita e quindi è anche giusto così. Poi se qualcuno sbaglia, se noi avvocati quando sbagliamo paghiamo, Sì. I giudici non lo so, anche loro c'è norme che regolano la responsabilità civile dei magistrati se sbagliano. Certo, un giudice non può, adesso io per carità non voglio difendere a spada tratta i giudici, però anche loro, io mi dico, loro decidono sulla scorta delle carte. Se loro reputano che sulla scorta di quelle carte ci sia una responsabilità, condannano, se no no. Abbiamo tre gradi di giudizio, è vero che quella si è fatta 8 anni di galera e se è innocente questo è un problema, però è anche vero che ci sono delle norme che poi dopo riescono a risarcire questi anni di prigione di ingiusta custodia cautelare. Né il giudice per paura di dover sbagliare deve chiedere la soluzione, cioè il giudice deve fare il suo mestiere, poi in coscienza non è facile fare il giudice, è più facile fare l'avvocato. L'avvocato bene o male sposa una teoria e va avanti con. Non è facile, però e comunque non sono mai in malafede, io reputo che insomma io ho molta fiducia nella magistratura e nei giudici, li stimo molto per conto mio. Il famoso indubbio pro reo, no? È il famoso indubbio pro reo, penso che sia di lontane. Certo. Indubbio pro reo. Rispetto adesso, nel bene a chi già scriveva le regole, com'erano? C'erano più o meno, ovviamente. Beh no, lì allora c'erano delle pene corporali, adesso non ci sono più se Dio vuole. Beh insomma sì. C'era la legge del taglione, quella del taglio della mano, dell'osso rotto. C'era la Cassazione che teneva. No, lì chi sbagliava lo legavano in un sacco e lo buttavano, chi lo facevano fuori così, lo legavano in un sacco con dei serpenti e lo buttavano in acqua. Fantastico. Con delle libere. Questo era con quei serpenti dentro? Vabbè, così erano i sistemi. Il signore... Volevo chiedere con mi interessa la relazione interculturale che può aver avuto lo sviluppo del diritto romano sulle altre culture europee del mondo. Da quello che dalla vostra presentazione è chiaro che il diritto romano è un fulcro attorno al quale circolano poi i vari diritti positivi che si sono sviluppati nei secoli. Allora, da qualche parte ho letto, e poi magari qualcuno si mette a ridere, no? Che in Italia ci sono tanti furbi, ossia ha fatto la legge e ha trovato l'inganno. Mm-hmm. E da qualche parte ho letto che magari una spiegazione per questo è da ritrovare nel corpo molto intricato della legislazione romana, dove c'era una legge per tutto. A quel punto lì diventava molto difficile per una persona, specialmente quando le leggi non si abrogavano, magari diventavano una, si mettevano una fila all'altra, diventava molto difficile per le persone capire qual è il comportamento, quindi invece che star lì e mettersi cioè perdere le notti a capire come funziona, trovi insomma tu la via, eccetera. Se il diritto romano però è alla base di tutti i diritti europei, escluso magari i paesi anglosassoni che hanno probabilmente adottato un altro sistema diverso da quello romano, come mai questa tendenza a fare i furbi in quei paesi lì è molto meno gravosa che in Italia? Ma io non so se in Inghilterra siano meno furbi di noi, Non lo so. Il diritto può avere la capacità di influenzare come si sviluppa una determinata cultura? Beh, il diritto... I scrimesi si vestono col mantello di pelle perché fa freddo, chiaramente, no? Nel deserto non lo farebbero, quindi il freddo ha anche un'influenza su come si veste la gente, quindi sul cibo che si mangia, eccetera. Il diritto ha questa possibilità. Ma più che il diritto influenza la cultura, io credo che sia la cultura che influenza il diritto, perché per esempio l'introduzione della legge sul divorzio nel 75 o giù di lì, adesso non mi ricordo, è stata proprio la cultura che la rendeva, diciamo, non più attuale il divieto del divorzio. La legge che ha abrogato l'adulterio, idem, cioè l'adulterio fino a pochi anni fa era un reato, non pochissimi. È un reato, cioè proprio si andava, c'era un processo penale. Dall'uccisione della... Il delitto d'onore era, diciamo, una forma attenuata. Le faccio un esempio: il delitto d'onore, che era una forma attenuata di crimine, oggi è una forma aggravata, perché il femminicidio adesso è aggravato rispetto all'omicidio normale. Quindi la cultura influisce, e non è tanto il diritto che influisce la cultura di un popolo, quanto il contrario, è la cultura di un popolo che influisce sul diritto. Lo stesso reato di stalking, sono tutte forme di reati che sono esitate da degli atteggiamenti che una volta forse venivano sottovalutati, ma si pensi anche all'abbandono dei rifiuti tossici, adesso è tutto reato, quindi ci sono dei comportamenti che una volta erano considerati come reati e adesso magari non lo sono più perché sono stati depenalizzati, e altri che una volta erano considerati, come dire, io ammazzo un cane, era considerato una cosa, diciamo, non nell'immaginario collettivo come una cosa di dicevole, e adesso invece c'è il reato di maltrattamento di animali. Quindi l'evoluzione di una società va di pari passo con l'evoluzione del diritto. Posso... che poi ci siano quelli che fanno i furbi, quello ahimè ci sono sempre. Posso anche inserirmi, adesso pensavo anche il discorso degli atteggiamenti sessuali, no? Allora, una volta la pedofilia non era proprio un tema, no? E non ci si poneva neanche il problema della sanzione o di come comportarsi nei confronti di un pedofilo, mentre l'omosessualità veniva condannata. Adesso io penso, durante il regime fascista, quanti sono stati presi e anche internati perché magari avevano manifestato degli atteggiamenti, oppure espressamente dichiarato di avere delle inclinazioni di un certo tipo. Quindi quello veniva considerato reato ed era disdicevole, comunque addirittura passibile di essere poi rinchiusi e puniti. La pedofilia è un tema che viene fuori adesso negli ultimi anni, poi ci sono i reati della cibernetici, chiamiamoli così, che sono anche un nuovo fronte. Eh sì, anche quello. Che sta... Il diritto allora si adegua ai cambiamenti sociali, però il diritto, almeno in questi casi qua e anche recentemente in altri casi, si è adeguato anche a influenze esterne. La società si evolve, perché la società è rimasta dietro, il diritto è andato avanti. Ma no, io non credo, perché per esempio lei considera il mondo ha cambiato esternamente. Ma il diritto è una bella cosa, nel senso che comunque, voglio dire, se uno ci lavora se ne accorge che è al pari passo con la società. Lei pensi per esempio in Iran che l'omosessualità è un reato, anche in Russia credo, adesso non lo so perché non mi interessa, dico la verità, però voglio dire, in Iran è l'omosessualità è un reato. Ecco, lì la cultura dice che l'omosessualità è un reato. Da noi non è un reato l'omosessualità, addirittura non interessa più niente a nessuno. Quindi voglio dire, l'evoluzione del diritto c'è, e come se c'è. E certo, magari a volte stride un po', nel senso che arriva un pochino dopo, però poi di fatto si mette a livello. Perché, ripeto, faccio l'esempio dell'adulterio, che per me era una cosa inconcepibile. Cioè, commette un reato perché uno metteva le corna alla moglie, anzi più che altro marito, secondo me era una cosa allucinante, è stato abrogato, ma non è stato mica abrogato da molto, eh. La stessa prostituzione prima era legale, fino alla legge Merlin era legale la prostituzione, quindi l'esatto contrario, dopo è diventata illegale, no? Quindi poi l'immaginario collettivo, cioè la cultura di un paese, influisce come il diritto, perché il Parlamento è lì per quello, no? Cioè le leggi devono essere fatte anche per rispecchiare quella che poi è la civiltà di un popolo, no? Io dico così. Poi rispetto alla domanda dell'influsso sugli altri diritti, il diritto romano è andato a influire sui codici civili di quasi tutti i paesi europei, l'ultimo quello della Repubblica Ceca del 2013, ma non solo, quello egiziano, quello etiope, quello messicano, quello del Sud America, hanno tutte influenze romaniste. C'è poco da fare, quindi voglio dire, c'è stato un influsso del diritto romano su tutti questi paesi qui. Bene, ci sono altre domande? Sì. Pensavo al rapporto tra la religione e la legge. Io penso che in Italia la religione cattolica abbia avuto un'influenza sulle leggi che sono state fatte. Quelli di oggi no, ma quelli del passato abbastanza recente. Durante il periodo dell'impero romano invece questo tema non si poneva assolutamente, erano due sfere del tutto distinte, e quindi le leggi nascevano soltanto dalla necessità di far convivere le persone in maniera ordinata. Nell'Islam sappiamo, nello quanto si legge, che la religione è legge e politica. Allora questo mi interessa, diciamo, che cosa sta a dire oggi lo slabbramento violento della nostra società, che la religione ha meno influenza. I romani tolleravano tutte le religioni, addirittura nel Pantheon a Roma, cioè ci potevano stare tutte le divinità possibili e immaginabili. L'unica cosa che chiedevano loro è che non andasse a creare problemi di ordine pubblico. Ma tolto quello, i romani tolleravano tutte le religioni. La stessa diciamo persecuzione dei cristiani è tarda, cioè è postuma rispetto alla Repubblica e all'impero. Quindi certo la religione influisce come sul diritto. In Italia è influito, adesso meno. Però voglio dire, noi abbiamo il Vaticano in casa, no? Quindi è chiaro che c'è, nei paesi protestanti avranno forse altre sorte di pressione, non lo so, però anche quello, diciamo che a mio parere sono cambiati un po' i tempi, nel senso che ormai vedo che non è che il Parlamento si faccia molto condizionare dalle pressioni religiose. Se no non sarebbe passato neanche la legge sull'aborto, credo. Tanto che il Papa continuamente si scusa di questo, di quello, di quell'altro, che si... Il Papa fa il suo mestiere. Il Papa fa il suo mestiere. Io dico che l'Italia è un paese molto avanti dal punto di vista del diritto. Purtroppo ci sono anche qua delle lacune, forse dal punto di vista del diritto teorico siamo molto avanti, dal punto di vista del diritto pratico facciamo un po' fatica, perché vediamo che non c'è una certezza della pena, no? Nel senso che io dico, se una persona per bene fa tanto che finisce nelle maglie della giustizia deve veramente sperare che vada tutto liscio. Se invece un manigoldo che non ha niente da perdere finisce nelle maglie della giustizia, non gliene frega assolutamente niente. Questo è uno dei temi dolorosi dei giorni d'oggi, in cui quotidianamente si sente parlare e si riscontra l'esistenza di questo vuoto di potere che, in modo torno a dire, sconcerta e inquieta il comune. Ma cittadino. Questo non è problema di diritto teorico, questo è il problema di diritto applicato, perché se io vedo Striscia la Notizia che intervistano gli spacciatori di Torino e dopo due giorni sono ancora lì, c'è qualcosa che non va, insomma, no? Esatto, ma i venditori di telefonini rubati, no? Dove dichiarano candidamente, li abbiamo presi poco fa alla stazione. Ah, sempre Striscia la Notizia? Sì. E non nessuno interviene. Dov'è il vuoto di potere qui? Da dove nasce questo vuoto di potere? E perché è nato? E prima non c'era? Questo è il prezzo che paghiamo con la democrazia forte. Cioè, noi siamo un popolo garantista, venendo qua ho visto una mezza risa. Qual è quella piazza lì davanti alla stazione? Piazza Verdi o... sì, piazza della stazione. Sì. Sì, che urlavano, sì, sì. C'erano dei signori che stavano, cioè, si rincorrevano. A volte posso dire, fare una considerazione... E tra me e me ho pensato, ma guarda... A volte c'è un... succede, no? Che c'è un'evidenza, allora una persona si comporta in una certa maniera che esce dai canoni accettabili, crea delle difficoltà, però poi nello stesso tempo, non so, commette un'ingiustizia, però nello stesso tempo magari viene salvata da un cavillo giuridico. Ecco, questo probabilmente è quello che comunemente si fa un po' più fatica ad accettare, non so, uno che ammazza, fa una ammazzatina in giro e poi però viene scarcerato perché i termini non erano quelli giusti, oppure non si sa bene, qualcuno ha sbagliato nel fare, e lì diciamo che la società, io parlo come cittadino, rimane un po' così perplesso, perché parlavamo prima di stalking, no? Allora c'è il solito stalker che minaccia la compagna, l'ex compagna, parlo così non per essere sessista, ma purtroppo statisticamente sono più i casi delle donne che vengono perseguitate, ammazzate. Allora diciamo, questa si rivolge ai carabinieri, denuncia, dice, ci va anche magari 10 volte, dopodiché viene scuoiata in piazza, sgozzata davanti a tutti alle 12 di un giorno lavorativo, mentre lei si reca a casa con la collega. Queste sono le cose che forse la società non riesce a capire, dove è il cortocircuito, perché una persona si comporta e decide di fare tutto quello che è la prassi, cioè rivolgersi alle forze dell'ordine, fare la denuncia, dichiarare tutta una serie di cose, e poi però... Sì, però Valeria, cioè... No, ma adesso, questa è una domanda... No, ma è bello perché passiamo dal libro al pianeta giustizia, che fa sempre piacere, perché poi è difficile che uno magari si rapporti con un tecnico, con un avvocato, un giudice a parlare di giustizia, non so sì. Se vi capita spesso, però no. Devo dire che sullo stalking l'Italia è molto avanti, nel senso che comunque, voglio dire, se c'è sentore di maltrattamenti in famiglia, lo Stato interviene come? Per quello che vedo io. Certo... non è che puoi neanche arrestare uno perché prende per un braccio la moglie, sì. Cioè diventa difficile anche per un giudice chiedere una misura cautelare per uno che strattona il braccio alla moglie pur facendogli qualche livido, come fa? Cioè anche lì, sì. Però voglio dire, se il reato di maltrattamento in famiglia già c'era, perché c'è sempre stato, però voglio dire, se c'è degli indizi, ti dico, addirittura c'è ti blindano, Cioè se tu fai tanto che vai accanto alla moglie o alla fidanzata e la minaccia con i telefonini eccetera, cioè ti blind, cioè vai dentro, non è che anzi paradossalmente lo stalking è un reato che viene perseguito molto più di altri reati, proprio perché stanno molto attenti, diciamo. è per questo che dico che poi c'è il legame con la cultura in atto, quindi se c'è certo poi c'è magari, ma a parte che voglio dire, io dico che molti di questi hanno anche problemi mentali, perché non credo che uno ammazzi la moglie, se cioè non deve essere del tutto normale, secondo me, uno che fa una roba del genere, credo. Però anche arrivare a stabilire che magari uno ha un problema mentale non è così semplice, no? Perché immagino che dovresti prenderlo, portarlo da uno psichiatra, ma non è che puoi costringere... Vabbè, devi fare il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio. Perché insomma... Vorrei tornare un po' al titolo. Sì, perché ci siamo fatti prendere la mano. Il pianeta giustizia appassiona sempre, come la sanità. È una grande impazienza. No. Quando entriamo nella sanità, è come la giustizia. Possiamo dire che una maggiore consapevolezza di queste radici comuni potrebbe anche aiutarci nel cammino dell'Unione Europea a un livello migliore rispetto a quello che c'è? Cioè, forse sentirci legati, no, da un qualcosa di così sostanziale potrebbe anche aiutarci a superare anche tanti individualismi. Guardi, c'è un libro della professoressa Eva Cantarella, che non so se la conoscete perché è stata professoressa di diritto romano, molti anni, e scrive, penso, anche su Corriere della Sera, che dice che secondo me più che l'Eva Cantarella, hanno scritto un libro a quattro mani con un'altra professoressa, che dice che l'antichità era la vera Unione Europea, c'era nell'antichità, perché se noi facciamo caso c'era l'Europa centrale, che era unita al Mediterraneo ed era unita tutto al bacino del Mediterraneo, la Siria, la Turchia, tutto il Mare Nostrum per intenderci, e tutti transitavano liberamente, commercianti, pellegrini, la lingua parlata era il latino e tutti transitavano liberamente, commerci, persone, e quindi lì era proprio, diciamo, l'unità, era proprio quello che, diciamo, oggi poteva essere un'unità anche di culture. Oggi purtroppo le cose sono cambiate e quindi l'Europa litiga con l'altra parte, con l'altra sponda del Mediterraneo. Tra i paesi europei litigano anche loro, ognuno fa i propri interessi. L'Europa è quella che è, nel senso che comunque è vero che c'è un'Unione Europea che fa delle leggi, eccetera, però ogni tanto qualcuno si sveglia e dice: "Boh, adesso io me ne vado." Allora questo qui non è un buon presupposto, ecco. Secondo me la strada è ancora molto lunga, molto lunga. Poi probabilmente anche i vari passaggi non sono stati proprio, tipo l'euro, altre cose, non sono stati proprio pensati, ponderati proprio attentamente. Cioè, come si fa a parlare di un'Europa unita quando ognuno dice io me ne vado, domani se vado al governo io me ne vado fuori, se vado al governo io resto? Cioè, in America non credo che facciano così gli Stati Uniti d'America. Poi abbiamo le piccole patrie che si tolgono, no? Tipo la Catalogna. Beh, la Catalogna poi fanno sull'autonomia dell'Alto Adige, sai che io guai. Sì. È molto, la Catalogna ha fatto peggio di così, non poteva fare. Ha messo anche in difficoltà, insomma, diciamo. Cioè, muoversi in maniera... è come un elefante in una cristalleria, cioè la Catalogna. Sia il governo centrale che quello locale. Se ci mandavano dei bambini di 13 anni, forse riuscivano a gestire meglio tutta la situazione. Ecco, io non so, penso che possiamo... Sì, possiamo. Se non ci sono altre domande, concludo con la... sì. Ho letto che addirittura l'autonomia, sono stati invitati in Israele dai palestinesi, dai politici locali, per vedere, di studiare l'autonomia dei paesi dei palestinesi giù in Israele. Ho letto qualcosa sui giornali, per dire. Non credo che abbiano invitato quello della Catalogna. No. Anche perché quello è su, no, mi sembra, sì, ancora. Sì. Siamo ancora in attesa di indicazioni, no? Adesso quando si prescrive rientra. Pensano di muoversi. Così è facile, sì. Quando si mette male ce ne andiamo. Comunque, ecco, io volevo ringraziarvi e ringraziare il nostro ospite, che oltre ad essere una persona molto competente è anche... Grazie. capace di muoversi così in cose anche improvvisate, domande impossibili, che ecco, con simpatia e con competenza. Vi invito a leggere questo libro che è molto bello, c'è anche una parte storica molto interessante, e si assapora anche la conoscenza e la sensibilità storica da parte del professor Baldessarelli. Io vi invito a tornare nelle nostre prossime avvocato, iniziative. Avvocato, non sono professore. Ecco, avvocato. E vi invito a tornare, insomma, in biblioteca e alle nostre iniziative. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, Franco. Grazie.